GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Su un punto tutti gli europarlamentari sono d'accordo: i tagli radicali non servono a uscire dalla crisi. Questo è il coro, decisamente bipartisan, che arriva appunto dall'Europarlamento a commento dell'accordo sul bilancio 2014-2020, raggiunto come deve essere dal Consiglio europeo, ora in attesa dell'esame dell'Eurocamera. Vi abbiamo anticipato che avremmo sentito il parere degli europarlamentari, l'abbiamo fatto ieri, continuiamo con un nuovo europarlamentare, Giovanni La Via, capo della delegazione del PDL PP al Parlamento europeo, intervistato da Laura Bettini. Negli anni, dice, abbiamo lavorato a progetti molto più ambiziosi. Le rubriche che sono maggiormente connesse con la ricerca, l'innovazione, le piccole e medie imprese vedono un taglio rilevante. Dall'altro lato, ciò che è il risultato per la coesione, sicuramente si poteva fare di più. Anche la PAC vede un taglio rilevante, così come le politiche di sviluppo esterno. Qualcuno ha criticato un'Europa spendacciona, ma l'Europa da questo punto di vista è efficiente, col 4% movimenta un 96% del bilancio che invece è destinato a investimenti. Siamo stati condizionati nella decisione ovviamente da chi ha voluto rivedere al ribasso, perché non crede più nell'Europa, perché forse addirittura ci vuole uscire dall'Europa, e da alcuni paesi che hanno una visione europea che non è quella che abbiamo noi in Italia. L'Europa è la soluzione della crisi e non è la causa. E infatti lei ha detto che questa del Consiglio è una base di partenza per la discussione. È una base di partenza perché nella discussione il Parlamento è chiamato a dire sì o no a questa proposta. E vi ricordo, lo dovrà fare entro la fine di quest'anno. Giovanni La Via, capo delegazione del PDL PPE, l'intervista di Laura Bettini. Ieri sera intanto Eurogruppo, cambi, banche, Cipro. Questo i temi dell'agenda. È stato un Eurogruppo decisamente interlocutorio, quello in cui ha fatto il suo esordio ufficiale il nuovo presidente, l'olandese Jeroen Dijsselbloem. Al centro dell'agenda è il problema dei cambi, con la Francia decisa a mettere in discussione l'eccessiva forza dell'euro, sempre più zavorra per le esportazioni continentali. Non vogliamo una guerra delle valute, ma piuttosto definire a livello mondiale al G20 un approccio comune che cerchi di stabilizzare il corso dei cambi affinché rispecchi i fondamentali delle economie. Così il ministro delle finanze transalpino Pierre Moscovici. Per Moscovici, se un tale apprezzamento si conferma, alla lunga potrebbe produrre un effetto negativo di 0,3 punti sulla crescita dell'eurozona. Nonostante le insistenze francesi, Dijsselbloem ha preferito rimandare ogni azione al prossimo vertice G20. Passi avanti invece sulla possibilità di porre un tetto alla capacità da parte del Fondo Salva Stati di ricapitalizzare direttamente le banche europee in difficoltà, in modo da evitare un prosciugamento delle risorse. Sul salvataggio di Cipro, infine, tutto rinviato a dopo le elezioni sull'isola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine una notizia che arriva dalla Corte Europea dei Diritti Umani, che ha deciso di non accettare il ricorso col quale l'Italia ha chiesto il riesame della sentenza con cui la stessa Corte il 28 agosto scorso ha bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita. Questa dunque la posizione definitiva della Corte Europea dei Diritti Umani. Noi con questo abbiamo concluso. Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donelli al microfono, appuntamento con GR Europa domani poco dopo le 3. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.